figlio alla fine, la colpi ne prende meno dell'altro. No, è anche più sensibile in ricezione. Io quello di il figlio di Capri 2 non lo sentivo, invece con questo lo sento. Con Antonello Di Ussi stavo parlando. Epson, ecco qua Epson. E non è quella Epson. Ma bisogna vedere, mi bicappa, queste sono. Perché non funziona. I K sono i neri, C, M, I, L, C, L, M. E se lo dico, vediamo. Avrei sbagliato. Ma alla fine come prendere l'originale, capito? Senza sei originali, 50 euro la Giubagardi. Certo, comprare la comprare nuova. E cosa, la stampante? Bah, per carità, cazzo, questa è più i gasucci, costa più l'inchiostro che la cosa, che la, come si chiama, la, bah, che la macchina, dai. Ma io ho curto, dai. È vero quello, eh. Cazzo, non ti mi dici di cazzo, questa, ma la gasucci, chi sta cubia? Lo te ne dico loro. 49 euro le ho pagate e da voi l'ha già ciappata la gattuccia, la gattu che va più di riserva. Casino. Ma già l'ha imposto in bianco e nero. E così cambio solo due cartucce al massimo. A chi c'ha dei neri ne ha due. C'ha il nero fotografico e il nero normale. E da voi mi disegna l'inverso. Beh. Allora, Vozzo, quando finisco questo inchiostro me la compro nuova. Forse è l'unica. E alla fine ti conviene Natale, capito? Sì, no, me la biglio laser, come te chi sai va più, era pure a colori quella laser che avevo. Quella era bella. Solo che ho fatto un casino di coppie. E alla fine non funzionava più. Vabbè, tu che la usi un bel, a me la verità non è che mi serve, io ogni tanto faccio qualche fotocopia, non me ne porto nuda, vuoi non la posso anche comprare, ma non me ne porto nuda Natale. Se non la usi, per esempio a me il medico me la manda via email le ricette, e io me le stampo e le do a Concetta andare a comprarle, capito? Ah, ecco, ho capito, vabbè, così sì, così già va bene. Non ci vado io dal medico, no. Concetta lo telefona e lui mi scrive le medicine e me le manda via posta elettronica. Mi ha cominciato a candubire il Covid e me le stampo io le cose, le ricette. Dalla farmacia ed è tranquilla. Capito. Ciao Luca. Buongiorno Concetta, mi senti? Sì, ascolta, ma Marina come si chiama di cognome? Non te lo posso dire qua. E allora mandami un messaggio. Dammi l'amicizia su WhatsApp e lì sei sicuro al 100%. E cosa vuoi tu? Giroso, sì? Mimi, Lugano è giunto. E Luna, cosa gli hanno fatto? Andatosi dal veterinario. Sì, sono andato, mi ha dato queste pastiglie. Guarda, ti ho mandato un messaggio, Natali, su WhatsApp, controlla. Sono andato e praticamente mi ha fatto comprare la vasellina per fargli entrare dentro. Infatti lo sto facendo io adesso. Glielo mando io dentro qualcosa, in modo tale che non esca fuori. Tanto vabbè, poi quando fai bisogno, fa la pipì, riesce di nuovo fuori. Comunque mi ha detto il telefono l'ho lubrificato perché se si secca è un casino. Poi mi ha dato queste pastiglie per prenderle per 8 giorni, tipo un antinfiammatorio. E poi vediamo, in questi 8 giorni cosa succede. Secondo cosa succede, comunque deve fare questa visita prima di tutto al cuore, perché c'è un soffio al cuore e mi costa 70 euro. Poi se il cuore glielo permette di fare l'anestesia, che riesce a sopportarla, là, diciamo, che fa l'operazione, ci vogliono, fatti il conto, 200 270 euro. Sono cari, ma la giusta di veterinari. Ma già comprata la vaselina? Perché io l'avevo comprata e ce l'ho nuova qua. Sì, l'ho comprata, mi serviva subito, no? Infatti l'ho portata a lui. Sì, 3 euro l'ho pagata la tarita, poi tutto piccolo, a Vuglia, fare i buchi. Basta una puntina, giusto per lubrificargli qualcosa e mandarglielo dentro. Perché se tocca in terra è un casino, male si può infiammare, si può prendere infezione, tutte queste cose. Cappa. Povero animale, mamma mia. È vecchiotta, e quant'è? 12 anni c'ha. Sì, ma poi c'è bella l'ardilla, Praticamente la pastiglietta gliel'ho messa nel viuste, però lo prendevo e lo mollava, cazzo, diceva, dammi, si incazza un bello, dico dammi, no? Lo do a mussimi. E poi piano piano stava mangiato, sicuramente sentiva la pastiglia. È bastarda, se ne accorge. Come faceva? Come Kurt. A usare i mossi che mangio un biliardo da Curti per dargli i bacigli, non hai idea. Anche per un romagna si inabizzava, puzzinoso, perché sentono l'odore. Infatti la bigliava, poi la bigli si era mangiata, che dice dammi, lo do a mussi, ci sono due gatti giù, tu ne hai due pezzi, perché lo suddiviso due pezzi, metà della metà, là. Tu quella se la mangiata. Adesso vediamo con questo una specie di antinfiammatorio. Comunque sia, mi ha detto che se riusciamo che regge l'anestesia, a parte quello, la devono sterilizzare praticamente. In più gliene leva i tumori, quelli delle mammelle. Lunghissima. Per forza, sono soggetti, sono gli sterilizzi. E non saltano mai, non la fanno saltare, troppo sì. Ma sai cosa mi è successo ieri? Stavamo uscendo con Maria, no? Mi fa, lui guarda c'è una cornacchia, questa è sicuramente da nido. Sono fermato, la stavo prendendo per metterla dentro il giardino, no? Cazzo, mi sono guardato dalla macchina, tra una piglia la cornacchietta, e non mi sono affogato, babbo faceva, l'uomo e la mamma, me la Zannetti. Sì, perché tu stai andando a toccargli il figlio, hai capito? Sono venuto come macchina in fretta. Ah no, stavi anni di curità, due. Io la volevo solo prendere e buttarla dentro il giardino e basta. Cazzo, volevi il cammino, vai a buttarmi, cazzo, in due, non mi vai di venga. Poi c'è un buco in macchina, lo zoo doveva vivere, ci va per le docca. E lui va bene la mamma di chi sa curraccio. Guarda, e gli altri... Cazzo, non credo che ti vicini. E le mamme le buttano i figli. E gli animali... No, cazzo, gli animali. Cioè, non credo che ti difendi. Lui va bene la mamma di chi sa curraccio. Ma che a volte è meglio da... E la via nel curitato si la viene a udumi. Se non si è entrato in macchina. Comunque l'ho lasciata lì, me ne sono andato. E hai fatto bene. Aspetta, vai un messaggio a vedere. Su WhatsApp me l'hai mandato. Sì. Sì. Non era quella che stava cercando Concetta. È diverso il cognome. Quello lì è quello di Marina. Convinta che si chiama Bappiso, invece no. Mi 80 euro costano le cartucce, lo vedi? Certo, e non te la compri nuova. La stampante nuova, mi bici, anda da media vuota. Oh, Luca! Ehi, la libico c'è. E grazie per avermelo scritto, ma su Facebook qua c'è. Sì, c'era, siccome avevo mezzo bisticciato qualche tempo fa, e lì c'era cancellata. E io mi avevo fatto un nuovo account, casino, un casino è successo, mezzo casino. Poi non so che cosa, si voleva mettere Instagram nel telefono, e allora non so poteva mettere perché doveva abbinarlo con Facebook, no? È automatico tramite Facebook. E si è fatto un account nuovo. €80 le cartucce Luca costano tutte, perché ne ha meno, c'ha due neri più c'ha BK, e BK sono i due neri, e poi C, M, I, L, C, L, M, cazzo, €80, vai là. Ma infatti dico, vuole comprarti la nuova, però l'ho data una a me, praticamente c'era il nero e il giallo, vabbè, due colori quasi finiti, era nuova mia, anche da fax faceva, e poi ho controllato quanto costavano le cose, costavano più della come si chiama? Dalla stampante, aggiungere la giurigarata. Perché abbiamo fatto la prova a caricarle, ma non me le leggeva perché volevano resettate, boh. E le mie mi dice che non sono originali, mi dice. Allora cosa ho fatto? Ho eliminato lo status monitor. Quando si fa se mi rabiglio nuova. Vabbè, l'unica è. No. È un casino queste stampanti, è un casino, costano troppo le cartucce. Costano più le cartucce che il coso, come si chiama? Che il. Costano più le cartucce che la stampante, anche se ti conviene comprare la stampante nuova. Guarda, se non potessi andare a prendere le cartucce che costano di meno. Allora, è una traversa di via Napoli, no, di via Mendola, si chiama, c'è Naturalia, no? C'è dove Naturalia la gelateria? Qua in via Cattalocchino io la piglio, e sono rigenerate. Solo il nero, quello grande, ho dovuto prendere, solo quello costa €18, ho dovuto prendere quello originale perché non ce l'aveva rigenerato, le altre sono tutte rigenerate, €49 totale. E poi cazzo, ieri vado e ho trovato la cartuccia della stampante, quella che avevo di riserva. Già le ho messe tutte insieme, ma mano che le consumo si ribongo. Oh Luca! Sì, dimmi coce. Luca, ma ho telefonato a mia figlia adottiva, no? E gli ho detto sola, sì, ma ho detto no, ho detto beh, allora ci vediamo più tardi. E cominciamo a baci, adesso ne stai mandando troppi. Figlia adottiva, c'hai. Sì. Che bella! Allora sai chi è quella del tabacchino vicino a casa? La mamma è morta di questa, si è pigliata Concetta come mamma adottiva. Molla. Ho capito, meglio così. Ma sei contenta, vabbè. Dopo la vita è questa. C'era la ragazza del figlio, il figlio è lei. E dico, purtroppo la vita è questa, ci vogliamo fare. Infatti. Ma a me mi ha regalato molte cose adesso la vita. E ti ne ha pigliato una di cosa. E che cosa? Ha fatto vigliuto di ne ha pigliato. In compenso mi ha dato una figlia. E allora si chiama mamma? No, mammina. Sono cose belle. Mammina. No, scherza, quando ha finito di parlare. Allora, mi chiama mammina, non mamma, per distinguermi dalla sua mamma, ed è giusto. Sì, però aspetta che termino io di parlare, se no non ci capiamo. Voglio schiacci tu la da lì. Ok. Ho detto, sono cose belle, molto belle, molto belle. Ma la roba è a figlio, sì. Mia, non sa come si l'ha dratta. Di lei. Ma è la padrona del tabacchino o la lavora al tabacchino? No, lavora al tabacchino, lavora. E con me sta al tabacchino questa ragazza. E forse tu la conosci. Guarda, faceva la commessa al tabacchino del latte dolce. Dice era bionda, era. Ebbo, ma giovane. Giovane. 48 anni. Ah, va, è cuyubada, e va figliuri, guru. Ma quando la giovunici da io, era bionda. Ah, va, è perinienda. Ah, ho capito. Meglio sta. Io tabacchini sono anni e anni che non ci vado a comprarmi le sigarette perché non fumo. Ma io dico, vedi, di tant'anni fa, mica, Andrea era una bizzina. Era la bizzina anch'io, mica, su tabacchino. Di Lunati Rossi, chi sono vicino all'ufficio di collocamento, tanto per intenderci. Io quando andavo all'ufficio di collocamento, o quando ero al soccorso sardo, bazzicavo spesso in quel tabacchino. Oh, non me lo ricordo, ma dai. Sono sincero, non me ne ammetto, lo so. Io la conosci da subito, pure se per i miei da. Ma tu eri bionda, eri quando eri ragazza, ha giudito. E che ne sei? Adesso sto pensando, questi coperchi, se fammeli verniciare, ci si va perché a dove? Pensavo che mi la vedo il carradio, me la vedo nuova pure. Qualche graffetto ce l'ha mai, qualcuno se la mette in camion. Ma non ti ribigliassi, causa di ruba di va, là, i vomi, chi si intrattenne, no, è un mentero mio. Sì, vuole identico, penso, boh, non lo so, allora, nei tanti c'è SV, SRF, SVR, CAL, poi c'è NB, ANL, poi Zone, I Love, poi canale d'emergenza CH9, poi c'è fine corsa, poi c'è CW FM, AM, USB, LSB, poi VIA, V/E/B, F/C, poi c'è la manopola SVR CAL, ma poi si sa preciso. Uguale identico, io l'ho preso nuovo e infatti c'ha quelle plastiche adesive sopra i coperchi, un cavolo ne l'ho tirate, le ho lasciate così, come quelle di Gianni vabbè, ha visto le plastiche adesive sopra i coperchi e lui ne le ha tirate però. No, io le avrei lasciate, vabbè. E le ho lasciate, poi ci ho messo sopra uno di quei panni degli occhiali per metterci il rosmetro, così non rugraffia e rimane sempre nuovo. Sì, guarda, ho trovato la foto. E il mio c'ha i cosi rossi, i numeri rossi. E anche il mio, però io gli ho messo la lampadina, gli ho messo i led della lampadina, ho levato la lampadina, la sua originale, gli ho messo il led. E dove? Nello Smith? Sì, il mio è bianco, non è giallo. E io gatto, lui vengo chiudendo chissà cosa, chi con i led mi va di gigu. No, non è rosmetto, nel baracchino, nello Smith è nel baracchino. E il mio è giallo, già lo so. Io i led non glieli metto, è uguale al mio, e dai, frugo su bianco. È bello, nuovo nuovo. E il mio è un po' graffiato, non è nuovo nuovo. Pari, nuovo nuovo. Ma non ce l'ha da molto? No, l'ha preso a seconda mano, non l'ha preso nuovo come me. Allora c'è. Però è uguale, identico al mio. Gli ha messo solo i led bianchi nel coso, nello Smith. E non la puoi mettere. Solo che il mio è espanso di canali anche. Come? Ho detto che il mio è espanso di canali. L'ho levato il jump e l'ho spostato. Ma io non rubo su va, già lo sai. Quando c'ho in mano il verbale è tutto regolare, allora posso tutto questo che mi pare mi biaggio. Beh, certo. Questo dà 3 watt, dà. Non li dà 4. Ah, 4 o 7. Vabbè, questo vuol dire che ha du scacciavitando. Questo è normale, che si dà la fabbrica, non si spostano i canali, nulla. Ma si è omologato, lui da usi e io sono puro e sano. Ah, beh certo, sei più che tranquillo. Sei più che tranquillo, vabbè, ci mancherebbe. Allora, così almeno non lo tocco. Non tocca se questo non si tocca. Non lo tocca se. Funziona bene anche col microfono normale suo. Un bel microfono c'ha, cazzo. Tipo quello del Cobra. Non so se è uguale a questo che ho io, quello che hai tu. Togliti. Però funziona benissimo. No, il mio è quello del presidente Jackson. Gatto mi asitendi i ciugani, gatto mi abbaidendi. A me già mi graffeggia la Jan, che mi chiudo in camera, no? Tanto che è fuori con mamma. Nel caso che mi vuole mi graffia la porta. Abba e boh. Io ci abbaggia, ho forni la mimola quando vuoi ci. Puzzinoso, si quasi incomprendimi. Si può andare a pisciarmi, così due abbaggi, cosa c'è? Ma la pipì puoi fare, allora è tu, wow wow wow wow, e muove le gambe davanti. Vuol dire che lui vuole andare a pisciare, a si immaginare. Allora io biglia lo posso fare a rubuciare, s'appoggia a rubuciare. Oh, poverino che non c'ha acqua, il mio amore. Oh. Mettiti lì l'acqua a quel punto, metti. Vabbè. A me non mi è costato 1500 euro. No, Gian, non so, ma dice, è mio nipote. Un mese, cazzo, da cavalli di trattamento bari Marassitti, chi ti... Quanto gli hai pagato? Per le zanzare, per le cose, ogni mese glielo faccio. No, io c'ho il collare che ho preso, 10 mesi, ho pagato 10 euro lì a Conad. Voglio il collare, ti puccia, ti zecche, fatti parassitario, allora, 10 euro. Okay. Però va in presa a comprare le cose, se ne avvicina in diritti, non funziona, chi si verrà a comprare due a Curti e non funzionava. Più pieno di pulci di quando non ne ha. E allora, l'ho dovuto fare subito il trattamento, immediatamente. Non c'è un animale che fa così, è tutti mucchi. Noi tu ci tengo a questo cane, quel collare lì non funziona assolutamente lui. Ma non che... L'avevo pagato 30 euro io il collare antipulci di Kurt, eppure non funzionava, non si via un cavolo. Ma io l'ho sempre preso e se mi è funzionato bene. No, no, io gli faccio il trattamento ogni mese. Allora sono così sicuro che animare intanto non ha poveraccio. La mascotte della veterinaria lì. Sembra così, ma... che è un animale, come si dice, purtroppo quando si ammala ci vogliono soldi. E allora? È come un figlio. Se lo pungono le zanzare, li può venire la lesmaniusia, lo sai. Un pitbull di un amico mio, un cuccioletto così bello era, l'appunto di la sera zanzara è giunta la lesmaniusia. Purtroppo i cani si ammalano Natali, ci ammaliamo noi, si ammalano loro, purtroppo, usci, pazienza. Non sai cosa avevo per fare l'operazione all'anca di Gurt? 1500 euro alla clinica universitaria. Luca. Paola. Sì. Allora, siamo stati fortunati perché ci lavora una mia amica lì. Che poi abbiamo avuto sconti da tutte le parti e più mi hanno aiutato le amiche sue, la maestra Annadore di mio figlio, tutti quanti mi hanno aiutato a me. Meglio così, meglio. Aspetta un attimo che controllo il cane se ne è uscito qualcosa fuori, devo risbattere dentro. E se funziona l'antinfiammatorio, cioè già si sgonfia. No, Natali, non è uscito. Sono... E quando hanno lì? La gatta a noi c'è morta a 12 anni, poverina. Giocava con Kurt e tutto. Dimmi tu. Gabagabao. A Talino Alfa 1, se tu ascolti Luca, cambio gang. Perché Luca c'è da sempre presente, no? E ce l'ha fatta fare. Cioè, ma ha capito a me che tu mi dici? Sei mangiato tu. Sì, che l'hai visto buono, mi viene. Attenzione, Vittorio 10, cambia, cambia. Attenzione, canale 10, ascolti, chi sta mia grande modulata. Positivo, dai, Natalino Alfa 1, non so te se tu mi ascolti, qua. Sulla 131, coordinate e cagli da parte mia, capisci a me, gatta. Gara, gara. Ascolti Sud Italia. Avanti Sud Italia, se tu ascolti Nord Sardegna, buongiorno 973, gatta. Sì, sì, ti ascolto benissimo, buongiorno, buongiorno. Cobra qui, stazione Cobra, bene, ascolto, la città di Potenza. Buongiorno, città di Potenza, ma ti ascolto un po' satto, un po' strano di radio, lo sei chiaro, sei abbastanza complesso di modulazione, capo. Da questa parte ti ha modulato Luca in compagnia di Natalino, anche lui coordinato e Sassari che ti rilancia, avanti Natalino. Attento Potenza, se ascolti Natalino Alfa 1 qua. Aspetta che ti rilancio Potenza, ti rilancio Natalino Alfa 1 la Sassari, avanti Natalino. Attento Potenza, se ascolti qua Sassari, la città sarda di Sassari, cambio. Ascolto un po' più basso dell'amico, buongiorno, vado qua da Mimmo, Mimmo in stazione Cobra. Come ho detto prima della città di Potenza, nonché da Lucani qua. Cappa Potenza, Mimmo. Stazione Cobra, copiato al 100% qua. Ok, ok. C'è la propagazione, sto cominciando a aumentare, è tutto positivo. Ok, aspetta, esco un po' meglio. Ecco qua, tutto un po' di rossi, adesso mi copierai un po' meglio, dai. Cappa, avanti Luca per l'amico di Potenza, dai. Luca non riprende. Forse impegnato alla guida. Sassari, ti arrivo bene adesso? Io già ti ascolto, l'amico Cobra di Potenza. Io ti ascolto bene, l'amico Luca l'ho chiamato ma non rispondeva, cappa. Vabbè, stai facendo qualche trabacchetto. Va bene, dai, ti saluto l'amico di Potenza che devo fare qualcosa qua, ci sentiamo alle prossime, 73, Alfa 1 ti saluta, ciao. Luca, ci sei. Ma di come si vuole la richiesta? Cosa? A 45, chiami io, ti rispondo ai 50, è buona per la Sardegna, oggi è buona per la Sardegna, con pochi watt di giammani, arrivo anche forte. E io ho 3 watt con questo qui, poi non posso spostarmi sul 45, perché non funzionano i canali con questo che ho omologato. Lo so, è me l'hai gatto quella. Ho agganciato questo per farlo andare un po', è sempre spento. Chi è avanti? Angeli Lurchi, pompando sta Natalia. Affunge Natalia questo birichino. Questo birichino sì, e funge. Funge e fa i funghi. I funghi! Chiavagama. Chiavagama! Aspetta lei, a sei mamma. Attenzione, canale 10. posizione del canale 10, prego. E me la tricchi, sì. Positivo la parrocchia. Beh, Luca. Natale, mi sono spostato perché Luna non sta bene. Al vomito, cagarella. Una ridda. Un casino, Natale, un casino. Sembra facile, ma non è facile. Lo so. Canale 10, c'è qualcuno qua in ascolto, cambio. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto. C'è qualcuno qua? Ecco, attenzione, canale 10. Buongiorno, dottore Barracuda. Ipotigliato, apri come per casino. Attenzione, canale 10, buongiorno. Io, dottore Barracuda. Saluto il binario 10. Tricomen, imbottigliato. Attenzione, binario 10, attenzione, binario 10, cambio. Va. Vabbè. questo barracchino, boh. Cosa c'ha? Nulla, stavo dicendo, ma converrebbe toglierlo l'altro, perché ce l'ha attaccato sotto la cosa qua, per non averne due, mio, sai che non piani di cazzo di... Due sì. Converrebbe toglierlo e metterlo nella scatola. Ma sotto prendi là. Sì, infatti, mi rovendo, tanto. C'è quello me legato. Anche questo è melegato, tutti e due sono melegati. Melegato e melecane questo. Aspetta, ti sta dando un touch, un attacco di un tablet, aspetta. Cava. Cappa, ciao. Nico, e beh, come va? Ah, io mi sono preso il 3009 e così ne ho due omologati adesso. Ma uno lo metterò in macchina o me lo vendo, boh. Cosa amplifica questo microfono e cappa, è tutto bloccato giustamente, questo qui no, c'ha 40 canali solo che ha anche l'SSB, però non più di 40 canali e 4 watt non dà. E servono perché se ne vanno a parlare in banda laterale, nelle bande alte, capito? Ma io non ho di questi problemi, rimango qua e basta. E tanto, ce n'è più che in abbondanza. Ma vanno sui canali alti in SSB, capito? Non c'è, sì, e c'è, se ce l'ho io. Qua sul 3009 ce l'ho io, l'ho pagato anche poco, confronto a quanto costa. Oh, nuovo l'ho comprato in continente, nuovo. È l'unico che ho trovato, ce ne sono altri tre in, diciamo così. Ce ne sono, erano quattro, adesso sono tre perché me l'ho comprato io uno. L'ho pagato 162 e le spese di spedizione gratuite. Allora, Superstar 3009, omologato però devi scrivermi, se no te lo danno con 240 canali e con watt in più. Invece questo dà 4 watt e c'ha 40 canali solo. Scarsi di da 4 watt. E io con l'antenna mia sono riuscito ad arrivare a potenza stamattina con Luca, mi te lo può dire anche Luca. E secondo, se c'è propagazione, sì. Con la No, vanno in FM i tedeschi, vanno, c'è la propagazione e arrivano qua, non c'è problema, mi sentivo forte anche io, i tedeschi non vanno in AM, vanno in FM, capito? E infatti vuol dire che il giorno c'era molta propagazione e tu li sentivi ugualmente, capito? Adesso qua mi è successo un macello. Aspetta, forse riesco a sbrogliare le cuffie dal filo del quello che è silenzio, no? Come si chiama? Del microfono. Ah, forse era mia moglie, dai. Che questo, il microfono si sente più lei che io, che c'ha la voce acuta. Con Luca, ma Luca sta facendo un lavoretto e quindi non può riprendere. Certo che ti sento bene. Boh, non lo so, adesso mi sta arrivando 9:10 qua. È uguale, poca differenza perché siamo vicini. E avrà la capsula migliore, capito? Il microfono esterno. Nico, mia moglie ha acceso la televisione e si sentirà più lei che io. E adesso l'ha zittita, là, non c'è problema. Vabbè, là, ci sentiamo stasera. Ciao Nico, che se no la 50 mi rompe le scatole, che si deve accendere la TV. proprio quando sto parlando io, che ciao ciao, alle prossime Nico. Attento Nicola, semicoppi. Attento Nicola, semicoppi. Hola, hola. Hola. Hola, buongiorno. Attenzione binario 10. Attenzione binario 10. Hola, hola. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, 27.075. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa Vettura a questa parte. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa Vettura a questa parte, operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Attenzione canale 10, Alfa Vettura a questa parte che vi sta chiamando in frequenza. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa Vettura a questa parte, operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa 21 a questa parte, operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Attenzione canale 10, 27.075. Canale 10, attenzione canale 10, 27.075. Attenzione canale 10, 27.075, Alfa 21 a questa parte che vi sta chiamando in frequenza. Zio Natale è sempre qui, adesso non c'è. Natalino, ci sei? Ripeto, attenzione canale 10, 27.075, Alfa 21 a questa parte che vi sta chiamando in frequenza. Non c'è neanche propagation, ho un pochino. Ripeto, attenzione canale 10, 27.075, Alfa 21 a questa parte che vi sta chiamando in frequenza. Vediamo, buenos días, Spanish Liberica, escucha Alfa 21, Alfa 21 dal QTAC di Sassari, nord della Sardegna. Spanish Liberica, escucha Alfa 21, e me sta salendo la propagazione. Attenzione, canale 10, Alfa 21 a questa parte che vi sta chiamando in frequenza, 27.075. La rampa,